Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Roma e un saluto da Milano. Sì, però sei un po' lento, Drago. Senti, a reagire capo, perché vabbè, cos'è, sta telepatia, telepatia ti sta stufando, ma tu non sei, è che mi stufa, è che ci è sono... la mancanza di cervello, perché no, più cervello uno ha, più no, è reattivo alla telepatia. Non è tu vero, sei lento. È un ritardo fisiologico, è quello come quello di Sky quando segnano il gol che lo senti prima tu che lo stai guardando dalla Rai, capito? C'è un nuovo suono che adesso sta, diciamo, permeando nelle orecchie, nei cervelli di tutti quanti noi, che è quello della TV digitale quando si interrompe. Quella roba lì. Sì. E poi quando che sta diventando un classico, come il del telefonino che ormai tutti quanti siamo pronti a riconoscere. Sì. Questo del digitale sta diventando anch'esso un suono, diciamo, che veste, è molto interessante, soprattutto è interessante che quando ritorna l'immagine normale si sente un po' più basso il volume. Hai già notato? Ma questo mi sa che dipende dalla tua sordità. Vabbè. Comunque senti, siamo tutti preoccupati qui a Milano per te che sei a Roma per l'invasione dei pidocchi. Cioè, ho letto che c'è questa emergenza pidocchi a Roma, che bisogna rasare a zero tutti i bambini rom, come nei lager, che Roma è sconvolta da questa invasione. Ma chi è che dice ste stupidaggini? È la bambina dai. Santanchè col suo compagno di partito, il bambino Schiuma, capito? Vabbè, ma allora se lo dice Schiuma... Schiuma, sai com'è, lui piace la pulizia, quindi... Vabbè, possiamo star tranquilli, non è vero? Nessuna invasione di parassiti? Vabbè, adesso proprio non sarei proprio così sicuro che... Quindi... Cioè, sui pidocchi sono sicuro non ce n'è. Invece sull'invasione di parassiti, cioè, basta andare intorno a Montecitorio all'ora di pranzo. Insomma, vabbè, pidocchi nessuno, ma parassiti nelle trattorie. Ma quando gli italiani sentono le cose che stanno scritte sui giornali su Berlusconi, non si scandalizzano mica, perché Berlusconi parla come gli italiani. Gli italiani al telefono ridono, si divertono, scherzano, dicono anche qualche porcheria ogni tanto. E quindi è questa stampa di cultura azionista che non ha capito prima la DC e poi Berlusconi, perché non ha capito l'Italia. Immagina un'altra Italia che non esiste. L'Italia è un paese di gente semplice che ti fa anche la battutina un po' spinta, ma poi la domenica va in chiesa, c'ha i suoi valori, manda avanti con i sacrifici la famiglia. Questa è l'Italia e questo è Berlusconi che la guida. Vabbè, questa uscita del bambino rotondi mesi fa in TV mi aveva fatto impazzire, perché è il tipico caso in cui uno vuol parlare bene di una persona e invece ne parla malissimo. Vabbè, ma il bambino rotondi è unico, Sì, è l'unico che difende apertamente l'infantilismo, scusa, dicendo no, che... No, lui è unico perché appartiene a un mondo politico ormai finito. Il bambino rotondi è una specie di fossile. Addirittura. Se lo guardi, sì. Ma non è nemmeno vecchio. La forma spirale ma non è del fossile, quello delle conchiglie. No, manco vecchio, ci avrà, non so, una quarantina d'anni. Ma ha un'idea della politica antica, quasi molto antica. Fossile, Drago, fossile. Cioè, che idea è? L'idea che è che lo scopo della politica sia scavarsi un posticino, non dare fastidio, capito, a nessuno, però star lì e non muoversi. Come i pidocchi? No, aspetta, bambino rotondi stavo parlando, la Santanchè è un'altra cosa. Il bambino Giovanotti, no anzi, il bambino Giovanardi non ha un attimo di pace, sempre in tournée così. Però l'altra volta ce l'aveva con l'IKEA, perché in una pubblicità mostrava una coppia gay che si arredava a casa con i mobili svedesi. Sì, non proprio che si arredava, che aveva l'intenzione di, perché lì con la manina e guardava l'insegna. È la stessa cosa. Comunque, adesso non li avevano ancora comprati. Povero bambino Giovanardi, Giovanotti, insomma, lui è nero adesso, perché addirittura i videogiochi sdoganano queste coppie gay che sono ormai dappertutto. I videogiochi, si sa, sono usati da moltissimi bambini e Giovanardi tardi si preoccupa. Ha paura che il bambino, giocando a The Sims, che è questo videogioco in cui c'è anche una coppia gay che corona il suo sogno d'amore, questo bambino possa, e qui cito testualmente, venire deviato verso l'omosessualità. Sì, vabbè, ma bambino Giovanardi, si rassegni, non c'è più niente da fare. Questo è il mondo di oggi. Se non le va bene, le consigliamo di trasferirsi in un luogo in cui la gente si comporta come piace lei. Tipo? Un luogo tipo, non so, tipo l'Iran. Cioè, Giovanardi in Iran, te lo vedi? Sì. Lì se sei gay ti ammazzano. Beh, quindi sì. In Iran sono etero perfino gli stilisti. Vabbè, quindi... battute omofobe a parte, no, non omofobe. È carino invitare uno a trasferirsi in Iran. È come dire, vatti a far ammazzare. Ma scusa, insomma, ma è un posto come un altro. No, se no c'è Cuba. Cuba. Anche lì è tutto vietato. Quindi dovrebbe piacere al bambino Giovanardi. Giovanotti, sicuro. Beh, Cuba, però, almeno lì c'è il mare, c'è il bel tempo, le belle muchachas. Sì, ma sono vietate. Quindi. Ma come le muchachas? Sono vietate le muchachas? In teoria sì. Ma come? Ma sono famose le muchachas di Cuba? Sì, ma in teoria sono vietate. Sono famose, ma sono vietate. Vabbè. Tanto vabbè, non è che Giovanardi debba per forza aver voglia e tempo di star dietro le muchachas. Tanto più se sono vietate. Può andare sì, a Cuba. Sono vietate. Drago, però poi succede che, capito, se per loro non c'è problema, per Giovanardi magari anche non c'è problema, no? Capito? Non è previsto il no. Questo era l'ultimo singolo del bambino Alberto, che ormai ne sforna uno al mese. Non correre, sì. Papà. Sì, però questa è una cover. Finora ha cantato solo canzoni originali, stavolta invece si è cimentato in una cover di un pezzo poco conosciuto. Ecco, approfittiamo. Allora, sapete di chi è la versione originale di Non correre, papà? Scrivete a chiedosilo @radio24.it. Sì, ma vuoi sapere, cioè vogliamo sapere chi la cantava proprio? Ma no, chi la cantava è troppo difficile. Appunto, vogliamo sapere chi l'ha scritta e chi l'ha inserita nella colonna sonora di un suo film di tanti anni fa. Dai, ecco. Ho già dato un sacco di suggerimenti. E anche vogliamo sapere come si chiamava il film. In palio riceverete l'MP3 della canzone del bambino Alberto. Chiedosilo @radio24.it e non correte in macchina, E va bene, allora mandate le vostre mail a chiedosilo@radio24.it per rispondere al quiz sulla canzone Non correre papà del bambino Alberto. Sapere da chi, da quale film è tratta e chi è l'autore. Intanto K da Roma continua a mandare messaggi per gli extraterrestri col suo affarino. Eccolo. Il tuo affarino, come sta?